Friuli nel mondo, 190esima trasmissione dedicata agli emigrati. Festival 1969 della canzone friulana. Vi trasmettiamo oggi, cari amici radioascoltatori, un primo gruppo delle 12 canzoni friulane eseguite durante la decima edizione del Festival della Canzone di Pradamano, svoltosi nella stupenda cornice del Parco Giacomelli. La spontanea e calorosa accoglienza del numeroso pubblico ha confermato la piena validità della manifestazione dalla caratteristica prettamente friulana, anche perché gli autori dei testi poetici e musicali, l'orchestra, i cantanti, il presentatore e lo scenografo erano di casa nostra e, particolare degno di rilievo, tutti dilettanti. Con l'orchestra diretta da Virginio Feruglio ascoltate pertanto Tu sei sbielle di Candotti, Prenassi, canta Dario Zampa. Biele, biele, biele, con che muse di Madone, tu sei spropito ne stelle, cavas luz la gnotele te. Tu sei biele, biele, biele, con che le nas di birichine, che putiu te piccinine, fate tutte Marbosa. Oh, ninine, oh, frutine, dimmi, dimmi, dimmi di sì. Oh, ninine, oh, frutine, dimmi, dimmi, dimmi di sì. Tu sei sbiele, biele, biele, la tua vita è tarundine, e che la voli vite, amiamo fatti innamorare. Tu sei sbiele, biele, biele, con che muse di Madone, espropi tu ne stelle, capas luz la gnota di. Oh, ninine, oh, frutine, dimmi, dimmi, dimmi di sì. Oh, ninine, oh, frutute, dimmi, dimmi, dimmi di sì. Tu sei sbiele, biele, biele, la tua vita è tarundine, e che voli di civite, amiam fatti innamorare. Con la voce di Teresa Scala ascoltate El Medial, autore Piero Marani. Sempre normal, lui al primo sore ti cantava puntual, ma come i son posti dischi non li giust, ti ignota il cante, io non sai salva per gust, si sa, salva in denanco sì, si sa, da pagella al va fini. saline puoi comprar, dal marcia di palme che lo ha fa diventa mar. Vuoi per più inclamato il me di parco l'uguali, curis e punturis mangiamo alle così. Si sa, salva in denanco sì, si sa, tappa gele al vaffini. Di Lodolo e Zuccolo ascoltate Mandi Mandi Amor, canta Claudio Del Tin. Parti lontan lontan, lasciam culi il mio passar, tristo biel non lo smenterai, un'altra vita o comincerai, forse più biele non lo mandi, mandi amor, anche tu tu mi smenterás, ma ti perdoni, pal ben che tu mi has dato, anche se pare pur è tan sincer, saludi mi amor, ma cenze vai, mandi, mandi amor, il mio cuor alzarà per te. L'amor sincer mai blu non mur. Ma pur è tan sincer, saludi mi amor, ma senza mai, mandi, mandi amor, il mio cuor alzarà per te. Es el destino al amor, el amor sin chirma en tu Dalla voce di Adriano Degano, eccovi La Mantelline Rosse di Scozziero e Carminati. se li zambista e stivai, tambie le tanninine, non l'hai più dude mai. Praurine disimbolte, sicure di plasè, e c'ale duci zobins, ma non mi c'ale me. Ah, ah, c'è rosse che mantele una flamme paglio cur, la gialline met la creste e il gialli badaur. A se mode stuzzichine e a dismod la me passion, e mi plasma di l'uno soi bon. Il cura al mi tontone appena colavio, ma è che moscardine mi rit e non mi cro. La fermi pa spiegarmi, sperandi fai capì. O dis piele zornade di buio non sai di. Ah, ah, c'è rosse che mantele una flamme paglio cur, la gialline met la creste e il gialli va da ur. A se mode stuzzichine e a dismod la me passion, e mi plasma di l'uno soi bon. A se mode sussigine e a dismod la me passion, e mi plasma di l'uno soi bon. Si mi plasma di l'uno soi bon. Si mi plasma di l'uno soi bon. No soi bon. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.